qual è il reale obiettivo della Juve? Pierre. Higuain, prossima telefonata. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Vi aspetto fino alle 15.30, telefoni aperti oppure 349-238-6666, via sms, via whatsapp. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao, come va? Bah, non bene, diciamo. Mai come in giorni come questi diventa difficile parlare di ritagli, di sciocchezze come il calcio, lo sport, che pure sono pezzi importanti della vita di tutti. Sì, no, ma assolutamente la vita va avanti, con grande banalità, non sono i giornalisti sportivi che devono risolvere i problemi del mondo, anche perché non saremo in grado, non sono neanche i giornalisti in generale. Credo che sia doveroso il rispetto per quello che è successo, anche perché riguarda tutti, riguarda anche le nostre ansie, le nostre paure, insomma è inutile aggiungere altre parole. Io ci capisco pochissimo, quindi facciamo quello che sappiamo fare, perché la vita prosegue. L'importante è che rimanga una connessione precisa ai fatti che succedono nel mondo, quelli molto vicini come quello di Nizza, ma anche quando ci sono tragedie in luoghi più lontani, che magari sono invece un pochino più dimenticate per ovvi motivi legittimi, no, di distanza. Sì, ci sia sempre modo di fare riflessioni, ad esempio anche riflessioni pensando che l'europeo è lontano meno di 2 settimane, a che grande prova e che grande rischio sia stato organizzarlo proprio lì in Francia, portarlo a termine pur tra mille difficoltà. Però dai, proviamo a parlare di calcio, proviamo a parlare di sport. 800 24 00 24. Oggi Pier, dobbiamo raccontare ancora una giornata di grandi mal di pancia, di grandi tensioni, di grandi colpi di scena. Allora, ieri sera è stata la serata la serata veramente più forte dal punto di vista del mercato, nel senso che sono successe due cose, poi nel senso, si potrebbero essere spalancati due scenari clamorosi. Uno riguarda Mancini e insomma le sue titubanze e i suoi malumori nell'azzurri, e l'altra ovviamente riguarda Higuain, l'affondo della Juventus. De Laurentiis ha detto che sono tutte stupidaggini, però la verità è che il tema è sul tavolo, anche perché quello che emerge in queste ore è che la famosa clausola da 94.376.000 euro non è scaduta il 30 giugno ma è ancora viva. E quindi tutto in mano forse alla Juve, a Higuain, senza più la mediazione del Napoli. Guarda, al momento, poi lo stato dell'arte può cambiare da un giorno all'altro, al momento la cosa è molto semplice. La Juve ha fatto il sondaggio con Higuain e questo sondaggio è andato molto bene. Non ci sono smentite da parte dell'entourage del calciatore, quindi noi dobbiamo dare per scontato l'idea che tutto questo sia vero, perché sono passate ormai tante ore, per cui se Higuain avesse l'intenzione di rimanere senza se e senza ma al Napoli, considerati i rapporti che ci sono fra Napoli e Juve, si sarebbe precipitato a dire: ragazzi, ma che stai dicendo? Rimango dalla Juve, non ci vado. Cosa che invece non è accaduto. È vero che in Argentina sono le 9:11 e quindi diciamo la giornata sta iniziando adesso. Sì. Ci sono mille modi per farlo. È anche vero che se sono le 9:11 adesso, ieri quando la notizia si è sparsa erano le 17, le 18, quindi c'era abbastanza tempo per poter dire qualcosa in un mondo connesso e globale come questo. Per cui insomma, diciamo che Higuain al momento non smentisce, e questo è un dato oggettivo abbastanza preciso. Il Napoli ha fatto capire, con la dichiarazione di Laurentiis e anche con dei sondaggi che abbiamo fatto tutti, insomma, muovendoci, che non si siederà attorno a un tavolo, che non c'è assolutamente il tema. Per cui la clausola c'è, il Napoli essenzialmente ributta la palla nel campo della Juve, anche perché non ha alternative. Quindi è ovvio che in questo momento l'acquisto di Higuain passa per il versamento cash in unica soluzione di quella cifra lì, che è una cifra che la Juve potrebbe anche avere, soprattutto se dovesse decidere di privarsi con una serie di cessioni. Esatto, però insomma il tema che lanciamo ai tifosi della Juve è 800 24 00 24, è se con Higuain la Juve è una squadra che parte tra le favoritissime per vincere la prossima Champions League. I napoletani invece possono dirci quello che vogliono, compreso questa sensazione di tradimento che certamente stanno vivendo in queste ore. 800 24 00 24. Gli altri convocati sono sicuramente i tifosi dell'Inter. Ti faccio sentire Mancini ieri dopo l'amichevole persa contro il CSKA di Sofia, Brunico. C'è stato modo oggi di confrontarsi con Bolingbroke che è venuto a Riscon? No, cioè, ci siamo visti, certo, sì, sì, come no. Abbiamo parlato di certe cose, di altre, insomma. Ieri più volte detto in conferenza, per il mercato e per altre cose dovete rivolgervi ad altri. Chi intendevi? Cioè, qual è la figura di riferimento? Non lo so, ma chi deciderà che giocatori comprare? Io continuo a non capire a chi convenga. Poi oggi Mancini ha lasciato il ritiro dell'Inter, è tornato a Milano ufficialmente perché deve cercare il passaporto che ha perso per poter partire per gli Stati Uniti con la squadra che parte per la tournée nelle prossime ore. C'è chi dice che l'incontro con Bolingbroke sia andato bene, che Bolingbroke abbia spiegato che queste sono le ultime settimane di sofferenza sul mercato, poi ci sarà modo e tempo di fare tutto quello che si vuole. A sentire Mancini, io non so Pier che impressione hai ricavato tu, ma io ho l'impressione di uno strappo che sarà difficile ricucire. Mancini è, non dico depresso, perché la depressione sappiamo che è una malattia, una cosa grave, quindi merita rispetto, ma diciamo calcisticamente depresso in questo momento, che non sembra Mancini entusiasta, trascinatore, che abbiamo visto in mille occasioni, e che secondo me è una delle caratteristiche importanti della cifra di Mancini da allenatore. Questo è un uomo che lo scorso anno diceva l'Inter deve montare lo scudetto, sorprendendo un po' tutti a inizio stagione, perché sa benissimo quanto è importante accendere l'entusiasmo, perché sa benissimo quelle che sono le regole del gioco di chi allena grande comunque come l'Inter, che da un po' di tempo non vince, quindi figuriamoci. Insomma, c'è un discorso di orgoglio, c'è anche un discorso di realismo, ma c'è anche e soprattutto un discorso di orgoglio. Sì, è tutto molto lontano, Oggi Mancini parla proprio un'altra lingua, anche un altro linguaggio del corpo, e non soltanto nel leggere le parole. Pier, adesso sistemiamo il collegamento telefonico che ha qualche problema. C'è chi ci chiede chiarezza sulla clausola di rescissione con cui Higuain si può liberare dal Napoli. C'è chi dice pagabile in 2 anni, informatevi bene. Noi non abbiamo posto nessun tema su quante siano le rate in cui si può pagare la clausola, se è scaduta o meno la possibilità automatica di esercitarla. Risultava scadesse il 30 giugno di ogni estate, quindi 30 giugno 2016, per poi riproporsi il 30 giugno 2017. In queste ore emerge invece che è una clausola che non ha una scadenza temporale all'interno della finestra di mercato, il che metterebbe evidentemente il Napoli con le spalle al muro. Ma abbiamo tempo di parlarne dopo il traffico. 800 24 00 24. Ecco, a proposito di quello che hai detto prima in radio, tu hai detto che in Italia... La radio poi si cazzeggia, eh. No, sì. Tutti convocati. Convocati. La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio, e tu senza dir niente hai trovato il coraggio. Higuain ringrazia e scappa via anticipando Padoin. Ancora il pipitara di rigore sul sinistro. Higuain! 2-0 Napoli! La Juve nel baratro! Il Napoli in paradiso! Se mi lasci non vale dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Napoli, tu sei il grande amore, quindi la paura di perderti è sempre alta dei tifosi del Napoli. Puoi rassicurarli anche da qui, dagli Stati Uniti. Adesso mia testa è alla nazionale e dopo la Coppa si parlerà. Metti a posto ogni cosa e parliamone un po'. Higuain, bisogna aspettare che ci sia qualche concreta proposta per la clausola rescissoria che supera i 94 milioni di euro. Una persona estremamente intelligente capirà che Maradona è diventato il protagonista unico a livello mondiale dopo Pelé, militando nel Napoli. E quindi Napoli è una piazza che ti dà quella immagine e quella luce che altrove tu non troveresti. Oh, stanno già arrivando Pier dei messaggi, 349-238-6666. C'è chi scrive che se arrivasse Higuain la Juve potrebbe anche far partire Pogba e sarebbe più forte. C'è chi dice l'arrivo di uno come Higuain pagando la clausola sarebbe un controsenso per quello che è fin qui il comportamento della dirigenza juventina sul mercato in questi anni. Tema assolutamente aperto. Saluto Raffaele Auriemma. Ciao Raffaele. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ti voglio farmi raccontare com'è la pancia dei napoletani questa mattina. Ma la pancia dei napoletani è un po' disturbata, ma neanche tanto. Neanche tanto, perché si erano già preparati a questa scena quando il fratello Nicola, parlando con me in radio, disse quello che disse. Quindi sapevano che si sarebbe arrivati un giorno a questo. Sì. Sapere che però è la Juventus che andrà a prenderlo, questo crea un po' di malumore, ma secondo me durerà lo spazio di qualche ora, durerà il tempo in cui il Napoli prenderà il suo sostituto. Se dovesse essere uno tra Icardi e Morata, tanto meglio, altrimenti non dimentichiamo che anche con Cavani abbiamo vissuto le stesse scene e poi è arrivato il suo successore e ha fatto meglio anche di lui. Sì, però io credo che non sia la stessa cosa, cioè se Higuain va davvero alla Juventus evidentemente sarebbe, credo, uno strappo, un colpo. Insomma, non dimentichiamoci che ancora un anno fa, prima che poi partisse la grande cavalcata del Napoli di Sarri, il giudizio che i napoletani davano di De Laurentiis era un giudizio non positivo, molto vicino alle parole del fratello di Higuain, per intenderci. Sì. Sì, e penso che in queste ore, anche se è assolutamente irrazionale, perché è chiaro che se la Juve versa la clausola, De Laurentiis non può fare nulla, quindi chiunque insomma sia dotato di senno fa nel momento 2+2 e scagiona da ogni responsabilità il presidente, a meno che non dica che quella clausola era sbagliata. Siccome fino a ieri non ho mai sentito, almeno poi Raffaele conosce Napoli meglio di me, nessuno dire che quella clausola era sbagliata, che non era congrua, che era troppo poco, eccetera, anche perché era stata messa prima del campionato record di quest'anno. Beh, io penso che francamente a De Laurentiis non si potrebbe riprovare nulla. Però sappiamo bene che poi il calcio è anche emozione, il calcio è anche soprattutto passione, quindi anche se razionalmente poi chiaramente De Laurentiis sarebbe innocente agli occhi dei tifosi del Napoli, un po' di malcontento ci sarebbe, e la complessità vera secondo me nascerebbe a quel punto dal mercato, perché è vero che tu prendi 94 milioni di 386 mila euro, ma poi chi vai a prendere? Perché Raffaele parlava di Icardi e Morata. Tutti sanno che a quel punto devi fare il grande colpo, tutti sanno che sei sotto pressione, quindi un conto sarebbe stato diciamo preparare, ma non ne faccio una colpa a De Laurentiis, per carità, De Laurentiis vuole tenere il giocatore e vuole fargli il contratto, questo non ci sono dubbi. Però dico, razionalmente parlando, sarebbe stato meglio per il Napoli preparare l'uscita del giocatore, quindi trovare una soluzione e lavorare già a un eventuale... Sì, perché Pier, cioè, e giro la domanda e il ragionamento a Raffaele, al di là del tecnicismo della clausola, e ripeto, poi gira tutto intorno al fatto se sia congelata o no dal 30 giugno, perché evidentemente se c'è un margine di mediazione di De Laurentiis, si immagino che Higuain al Napoli, alla Juventus non andrà mai, però il ragionamento è che se anche partisse perché viene esercitata la clausola e quindi c'è un automatismo che taglia fuori De Laurentiis, io credo che poi resti il peso delle parole del fratello di Higuain, pronunciate proprio a CRC da Raffaele, cioè quell'accusa: il Napoli non sarà mai un progetto per vincere lo scudetto per colpa di De Laurentiis e quindi noi ce ne andiamo. Ma è un ragionamento che io ritengo corretto, quello che stai facendo, Giovanni, ed è corretto anche quello che disse Nicolas Higuain. Un po' raccolse il sentimento dei tifosi, senza essere un tifoso, ma guardando agli interessi del fratello. Però le due cose coincidevano. Allora De Laurentiis aveva un'opportunità per evitare tutto questo, rinforzare la squadra secondo certi criteri che potessero essere tali da permettere a Higuain di pensare che il Napoli l'anno prossimo lottasse per lo scudetto. Certo, finora con Tonelli e Giaccherini, che sono due elementi di tutto rispetto, ma non dai la sensazione di poter allestire un progetto vincente. Indubbiamente l'occasione che ha De Laurentiis ora con questa clausola, che mi sembra una barzelletta, una presa in giro anche per noi che facciamo informazione, perché una volta scade a giugno, un'altra volta scade il 31 luglio, c'è, non c'è, allora mi sembra una barzelletta davvero. Però sorvoliamo, diciamo che la clausola esiste ancora e il Napoli dovrà subire l'addio di Higuaín dietro il pagamento soldi, non contropartite, perché nella clausola si prevede che ci sia soltanto il cash, ora in uno o due anni, questo non lo so, però senza contropartite. Questi soldi De Laurentiis può dimostrare ai tifosi che non c'è nessun altro interesse se non quello di rafforzare il Napoli, li investirà tutti per rafforzare il Napoli così come immaginava potesse essere con Gonzalo Higuaín. Pier. La prima cosa che succede se De Laurentiis vuole dare un messaggio ai tifosi e alla Juve è che non deve sedersi al tavolo per Pereira e per Rugani, che erano due obiettivi invece interessanti per la Juve e per il Napoli, scusami, perché chiaramente deve creare complessità la Juve, cioè deve dire alla Juve: beh, benissimo, c'è la clausola, venite qui, pagate cash in unica soluzione o due, o quello che c'è scritto in quella maledetta clausola, per carità, però alla fine cambia poco, insomma. E questa secondo me è il tema, questo è il vero tema. Quindi al di là della dichiarazione di ieri De Laurentiis, la sua volontà di fare tutto il possibile per evitare questa soluzione la si vedrà nel non scendere subito al tavolo a parlare con la Juve. Se si mettono invece a parlare di contropartite tecniche diventa un'altra storia. Poi c'è un altro aspetto, la clausola in assoluto è una soluzione interessante, soprattutto quando viene fissata a un prezzo oggettivamente alto come quello di Higuaín. Il prezzo della clausola è alto, non è che c'è molto da discutere, cioè comunque Higuaín quei soldi li vale. Poi dopo una stagione come questa si può anche pensare che il prezzo sia congruo, però comunque insomma quando è stata fissata era una clausola assolutamente a prova di bomba, e però a questo punto si deve fare la clausola della clausola, cioè questo è come il caso Pjanic, la clausola la fai per l'estero. Tanto più che poi in Italia era molto difficile pensare che qualcuno potesse presentarsi con questa stessa cifra. Era un po' eviti la situazione di Pjanic, perché oggi se tu fai un sondaggio fra i tifosi del Napoli, io penso che sarebbero molto più felici di darlo a 75-80 milioni all'Arsenal che a 94 alla Juve. Quindi siccome poi il calcio, ripeto, è anche emozione, è anche sentimento, il sentimento poi non è soltanto un discorso astratto, diventa concreto, perché se poi tu nelle settimane successive hai la stampa contro, i tifosi scatenati e la pressione, con questi 94 milioni ti muovi meno bene che se invece hai una situazione di tipo diverso. Quindi secondo me una cosa del futuro che dovrà essere tenuta in considerazione è le clausole, visto che sono tanto accordi privati, le clausole farle con sì, l'esclusione del campionato di provenienza, farle con tutto quello che si può scrivere. C'è un amico che ha scritto un messaggio lunghissimo che non leggo su WhatsApp per spiegarci che cos'è una clausola, che in realtà fa parte è una clausola di recesso regolata dall'articolo 1373 terzo comma, noi sì, ti ringraziamo e questo, hai perfettamente ragione. Poi tradotto tutto in italiano sta che se quella clausola lì vale ancora così come pare essere scritta, potrebbe partorire, credo, la più grossa sorpresa da decenni del calciomercato italiano. Grazie Raffaele. Ciao Raffaele. Però un'ultima cosa, sì, lasciamela dire. Finora io ho sentito solo parole da parte della Juventus. Se avesse voluto prendere Higuaín con la clausola avrebbe fatto come ha fatto con la Roma, quando Pjanic annunciò alla sua società di voler aderire a quella proposta della Juve e quindi far valere la clausola. Finora ho sentito solo attraverso i mezzi di stampa proposte un po' alla rinfusa, confuse. Se la Juve vuole Higuaín, secondo me deve andare direttamente dal Napoli e consegnare il denaro, basta, senza neanche dire facciamo la trattativa per Rugani, Mandragora o chi che sia. Ecco perché ho una sensazione sgradevole che si voglia provare a fare pressione, quindi a tastare il polso da un lato e a fare pressione dall'altro per ottenere dal Napoli Gonzalo Higuaín senza il pagamento totale dei 94 milioni. E qui De Laurentiis, oppure magari per creare condizioni perché De Laurentiis accetti un'altra offerta, magari quella dell'Arsenal, sotto clausola, che sarebbe comunque una mossa intelligente di mercato come sponda, esatto, da parte della Juve. Esatto. Anche volendo fare anche una ricostruzione, diciamo, un po' po' cervellotica, ci potrebbe essere anche questo tipo di ragionamento, no? Cioè, è chiaro che oggi, dal punto di vista dell'opinione pubblica, una cessione all'Arsenal diventa nettamente più gradita rispetto a 48 ore fa, no? Cioè, diventa quasi questo, un limitare i danni. Smentisce, la Juve non smentisce, però non smentisce nessuno, per cui io più passano le ore. Sì, non abbiamo conferme, ma nemmeno smentite. Abbiamo però la borsa, che come sai è... Ciao Raffaele, alla prossima. Così come fece quando annunciò la sua volontà di passare la mano alla scadenza del contratto 2018, che Nicolas non ha mai detto vogliamo essere ceduti quest'anno. Sì, ha detto semplicemente non vogliamo andare oltre. Grazie Raffaele. Ok, grazie a te. Ciao Pier. Alla prossima, c'è la borsa. Torniamo subito. Se la Juve cerca un giocatore come Higuain o un altro di un'altra squadra e che verrebbe qua, non mi sorprenderebbe, perché il giocatore vuole vincere i trofei e questa società qua lavorano molto bene per mettere in modo che si vince. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Si ricomincia. Tutti convocati. Aldo da Treviso scrive: la Juve non pagherà mai 94 milioni per un giocatore. Qualcun altro scrive: non lo farà mai per un quasi trentenne. Non lo so, queste sono però le cose che da ieri pomeriggio sono sul tavolo. Carissimo Pierluigi Pardo, 800-24-0024, Vittorio. Vittorio? Pronto, ciao, sono Eccoci. Vittorio, tifoso Dimmi. Del Napoli e consapevole che abbiamo un giocatore nella nostra squadra che fa gola a molti. I punti di riferimento di tutta la tifoseria però devono essere due. In primis il nostro presidente, perché senza un presidente così non avremmo ottenuto i risultati che abbiamo avuto. E secondo, il nostro allenatore Sarri, perché anche lui è un punto di riferimento. E quindi vorrei calmare la tifoseria, perché tutti sono utili, ma nessuno è indispensabile fuori che il presidente. Un presidente come il nostro è indispensabile. Se vuole andare via Higuain, ovviamente, perché c'è qualcuno che ci dà i soldi, va benissimo. Tanto noi sappiamo far girare i ragazzi, abbiamo preso l'allenatore che veniva dall'Empoli, tutti a criticarlo, ma cos'è? Sì, però Vittorio, io non so se Pier sei d'accordo, cioè, l'allenatore che veniva da Empoli è stato bravissimo, ma si è anche trovato una rosa di un certo livello, no, di cui Higuain, certo, insomma, non è un dettaglio. Poi no, posso aggiungere una cosa, così poi rispondiamo. La Juve non è l'Arsenal. Ecco, aspetta. Lo stesso campionato del Napoli, è come il discorso di Pjanic, cioè... premesso che poi c'è anche l'Europa, il Napoli quest'anno ha buone possibilità in Europa perché tra l'altro ha un buon posizionamento nel tabellone, finalmente ha un ranking alto, quindi per carità, però c'è campionato così, rischiamo di non giocarlo proprio, tanto per essere chiari. Sì, sì, la Serie A diventerebbe una sorta di Ligue 1, per esatto, quello che abbiamo visto l'anno scorso del campionato francese. Tra l'altro, proprio la Ligue 1 e la Bundes sono due campionati nei quali situazioni di questo tipo, cioè cessioni di grandi giocatori, di giocatori simbolo, di squadre emergenti al Bayern o al Paris Saint-Germain, sono abbastanza all'ordine del giorno, no? Sono quei campionati dove la superiorità della prima sulle altre si esplicita anche così. Ecco, cioè, il Bayern di Monaco fa shopping spesso e volentieri. Il Bayern di Monaco fa shopping spesso e volentieri nel Borussia Dortmund. A Dortmund, certo. Tra l'altro scrive un amico, Daniele da Treviso, e secondo me questo è un altro aspetto che invece va considerato, che la beffa è che la Juve potrebbe pagare la clausola il 31 agosto, comunque diciamo nel finale di mercato, e così il Napoli rimarrebbe comunque spiazzato, perché è difficile a quel punto anche reinvestire. Nicola da Belluno, Nicola. Buongiorno. Eccoci. Condivido, non sono tifoso del Napoli, ma condivido l'ultimo intervento che ha fatto. Infatti mi sembrava che la vostra conversazione fosse un po' lunare. Sì. Cioè, parliamo di una squadra che arriva seconda e ha di fronte una squadra di marziani. Parliamo di un giocatore che ha 30 anni, 29, e che vuole andare via, ma caspita, se arrivano i soldi, sì, se arrivano i soldi si reinvestono, perché poi siamo stati tanto a criticare l'Inter del triplete che non ha incassato o non ha cambiato ciclo, perché c'erano una serie di offerte per Milito, mi ricordo, pazzesche, per poi ritrovarsi i giocatori demotivati che non giravano più. Io penso che se anche la Juve si siede e dice ne do 70 e do Zaza, sia comunque uno scambio ecco, insomma. Il ragionamento ci sta. Io trovo lunare pensare dopo settimane e mesi in cui abbiamo visto che Napoli comunque fa anche fatica a portare giocatori di un certo peso nella squadra di Sarri, se la Juve arriva, si prende Higuain per qualunque cifra, la cifra è quella, 94.736.000 euro, vada bene così, perché tanto il Napoli potrà fare come l'Inter di Moratti, di Mourinho, potrà fare come la Juve che si comprò Buffon, Thuram e Nedved vendendo Inzaghi e Zidane. Io trovo anche, non lo so, Io sono d'accordo su quello che ha detto l'ascoltatore in linea di principio. Un conto però è Higuain, vedo che fa il fenomeno, a marzo ci guardiamo negli occhi, capisco che non rinnoverà, comincio a cercare i compratori fuori, chi c'è? Lo United, l'Arsenal, 85 milioni, 80, vabbè, mettiamoci d'accordo, intanto vado e vado già a cercare il sostituto, chi è? C'è Diego Costa che è frustrato, che non vuole stare più al Chelsea, faccio adesso, sto dicendo dei nomi, no? Allora, un conto è se tu questo tipo di processo lo guidi. Allora, se lo guidi, sono d'accordissimo che possa essere, io l'ho detto tante volte, ma se lo subisci. La Juve ha vinto dopo aver venduto Zidane, l'Inter ha vinto dopo aver venduto Ibra comprando Eto'o, comprando Lucio, comprando Snyder, quindi nessuno discute questo. Però qui c'è, prima di tutto, il fatto che questo processo non mi sembra lo stia guidando il Napoli, e secondo il fatto che la compratrice, l'eventuale compratrice, è la diretta rivale del Napoli. Cioè, qui stiamo parlando di quello che succedeva qualche anno fa, ai tempi di Rosella Sensi, con la Roma che era costretta a vendere Mancini, a vendere Chivo, a vendere spesso i propri giocatori migliori o comunque tra i migliori all'Inter, che in quegli anni lì era la squadra che dominava. Quindi è esattamente lo stesso tipo di discorso. Poi in assoluto 94 milioni 700 mila euro per Higuain sono sono tantissimi, però problema, probabilmente anche meglio, un ottimo prezzo, meglio in assoluto dei 32 milioni che faranno 38, ma c'erano la percentuale della Roma per Pjanic, e forse qualcosina in più. Facendo asta con i prezzi di oggi, la Roma poteva anche pensare di spuntarlo senza clausola. Quindi il principio generale è giusto, ma nello specifico qui stai. Poi stiamo parlando di uno che ha fatto 36 gol. Cioè, esce da una stagione. Per me così. Non ne fa 36 quest'anno, ma per un calcolo statistico, magari però ne fa comunque 26, 27 o 25. Ma rimane comunque l'attaccante più forte del campionato. Rimane il miglior attaccante del campionato. Per sicuramente. Sospendiamo per un momento il dibattito su Higuain, ma 800-24-00-24 rimane aperto e ci trasferiamo qualche chilometro più su all'Inter. Non ti sopporto più, davvero! Davvero. Ci puoi riassumere un po' con che spirito inizia la stagione? Amo il mio lavoro, lo faccio sempre, cerco di farlo sempre al massimo. È quello che sto facendo dal primo giorno, le altre cose per me non sono molto importanti. Ah, il contratto no, non è una cosa importante. Io faccio l'allenatore, alleno quei giocatori che in questo momento sono qua, ci ritroveremo tutti il primo di agosto, per partenze e arrivi dovreste parlare con altri. Ma come faccio? È finita Inter Sesca Sofia, hanno vinto i bulgari 2-1. Non ti sopporto più, sicuro, perché mi hai preso tu. C'è stato modo oggi di confrontarsi con Bolingbrook, che è venuto a riscontro? No, ci siamo visti, certo, sì, come no. Si è parlato anche di mercato o è un capitolo questo che al momento è chiuso? No, non abbiamo parlato. Abbiamo parlato di certe cose, di altre, insomma. Una curiosità, siccome ieri hai più volte detto in conferenza per il mercato e per altre cose dovete rivolgervi ad altri, chi intendevi? Cioè, qual è la figura di riferimento? Non lo so, ma chi deciderà che giocatori comprare? Questo. L'ultima cosa, Yaya Touré rimane il più grande rimpianto? No, Yaya Touré rimane ancora uno dei più grandi centrocampisti al mondo. Ancora è persa la speranza di poterlo portare? Sì, credo, assolutamente sì. Non ti sopporto più, davvero. Allora, saluto Massimo Paganin prima del traffico. Massimo, ciao. Ciao, buon pomeriggio. Mi dici, in sintesi, poi abbiamo tempo dopo il traffico di sviluppare il ragionamento, se ti aspetti di vedere seduto Mancini sulla panchina dell'Inter il 21 agosto, partenza del campionato o no? Ma io credo di sì, al di là delle esternazioni, l'ho seguito un po', ma credo che questo sia sintomo un po' di nervosismo. È vero che Mancini deve, non ha ancora rinnovato il contratto, probabilmente non gli è ancora stato prospettato, e di conseguenza possono esserci delle esternazioni. Delle volte il mercato non va esattamente come si aspetta l'allenatore, e di conseguenza, dato che su un allenatore di una grande squadra ci sono delle pressioni enormi, ci sta che lui possa far valere le sue ragioni. Sono schermaglie, sono ovviamente delle battute. Il calcio sta diventando sempre più mediatico, quindi ognuno cerca di evitare. Quindi secondo te sono schermaglie, non c'è uno strappo più profondo che quello che tanti interpretano in questo momento? No, è chiaro che Mancini è un allenatore importante, di conseguenza come allenatore importante lui pretende, vorrebbe che tutte le sue decisioni, ciò che lui dice, venisse preso in considerazione ogni volta, e di conseguenza nel momento in cui lui aveva chiesto gli Yaya Touré e probabilmente non sono riusciti a trovare una soluzione, si è un po' risentito, ma sono cose normali, credo che riguardi ognuno di noi, no? Poi è chiaro che stiamo parlando di allenatori di altissimo livello che subiscono delle pressioni enormi, quindi, però anche loro sono degli esseri umani, quindi c'è un momento nel quale magari il nervosismo esce più di altre volte. Questo è uno di quei momenti, credo che per il bene della società e perché è iniziato un progetto di lungo termine e ovviamente che dovrebbe terminare almeno quest'anno, sì, e credo che la società aspetterà a vedere più avanti se effettivamente il progetto portato avanti e la buona annata comunque dello scorso anno potrà dare dei riscontri anche quest'anno con il posizionamento in Champions League. Sì, però quello che colpisce è proprio l'assenza di dialogo in questo momento tra le parti. C'è il traffico, torniamo subito dopo, c'è anche Pierluigi Pardo e apriamo questo discorso sull'Inter. Guarda, adesso io cado dalle nubi. Tutti convocati. Tutti convocati. Tanto ieri l'Inter ha perso un amichevole che non vuol dire nulla il 14 luglio, ma è comunque un segnale, un campanello d'allarme. Io però mi continuo a chiedere in questi giorni, giro la domanda per Luigi Pardo, poi a Massimo Paganin, a chi convenga mantenere questa situazione di mancato dialogo, di incertezza con un amministratore delegato che vola da Los Angeles a Riscone di Brunico per parlare pochi minuti con un allenatore e probabilmente per non dirgli nulla di concreto. Pier. Ma allora, sicuramente non conviene a nessuno, però è anche vero che anche il mondo finisce il 15 luglio, quindi c'è tempo. È chiaro che è una fase complicata, Mancini da questo punto di vista è molto, mi è anche umanamente molto simpatico, perché comunque questo sentimento, diciamo che non è proprio faccia molto per nasconderlo, quindi lo trovo un atteggiamento molto, molto vero, no? Una persona molto vera che alla fine dice quello che e fa trasparire dal linguaggio del corpo quello che si sente addosso adesso, quindi è chiaro che questa situazione, se dovesse continuare, ecco, se tra un mese stiamo così sono d'accordissimo con te, ma non credo che questa sarà la soluzione in un senso o nell'altro, nel senso che credo che poi alla fine un chiarimento sia necessario. Poi mi risulta anche a me che in fondo non tiene domani quel colloquio lì. Certamente Mancini è perplesso e l'ha detto e l'ha fatto capire, è anche probabilmente deluso. La società, ribadisco quello che ho detto nei giorni scorsi, probabilmente vuole fare un percorso di tipo un pochino diverso. Mancini qualche bonus quest'anno e mezzo, per onestà lo ribadisco, l'ha sì, avuto, perché comunque non ha avuto mercati zero, cioè, certo. Oggi è chiaro che ha meno peso contrattuale di un anno e mezzo fa, no? Perché un anno e mezzo fa gli investimenti che l'Inter di Toieri aveva concesso erano stati sicuramente diversi da quelli che fatto non aveva concesso a Mazzarri, proprio perché Mancini arrivava con un'immagine di un certo tipo, che ha, perché è uno dei pochi allenatori che hanno vinto, questo è il punto di partenza. Però ci può anche stare che dopo un anno e mezzo nel quale comunque alcuni investimenti sono stati fatti e non è che proprio abbiano portato un grande beneficio, la società possa anche essere un pochino più prudente. Perché io credo che alla fine il tema sia questo. Sicuramente non conviene, cioè se stiamo così fra un mese, beh, c'è un problema. C'è anche chi chiede a chi conviene alimentare balle, stupidaggini ai giornalisti, ma a me sembra che lo scontro tra Mancini e l'Inter oggi sia lì, Massimo, non è da interpretare. Poi non è che, questo lo ribadisco, non è che la quantità di ascolti o il ci cambi lo stipendio, lo dico a tutti quelli che pensano, cioè non è che adesso, siccome per esempio c'è stata questa cosa Napoli-Higuain, questa voce di Juve, Higuain, diciamo l'USSI, l'Unione Stampa Sportiva Italiana, riceve in busta paga, cioè non cambia niente, semplicemente fare il nostro lavoro. Il nostro lavoro in certi momenti ci porta a dover raccontare situazioni che sono in questo caso anche abbastanza oggettive di scontro. E che facciamo? Non lo raccontiamo, facciamo la censura, quindi praticamente. Sì, stiamo semplicemente raccontando. Giro l'ultima domanda a Massimo Paganin, ed è questa: su Yaya Touré ha ragione Mancini o hanno ragione i cinesi che vogliono un profilo diverso? È chiaro che a Mancini è stato chiesto di arrivare in Champions League. Se lui ha identificato in Yaya Touré l'unico giocatore che può fargli fare un salto di qualità e raggiungere l'obiettivo immediatamente, è chiaro che lui si sente un po', diciamo così, stizzito per il fatto che non l'abbiano accontentato. Però è vero anche dall'altra parte, se andiamo ad analizzare, che si parla di un giocatore di 34-35 anni che ovviamente non chiede un contratto di un anno e basta, chiede un contratto più lungo e molto oneroso. Quindi la proprietà è in grado anche di dire: guarda, mi spiace, quel giocatore potremmo anche non prenderlo, dobbiamo trovare una soluzione diversa. Immagino che in questo momento Mancini sia molto nervoso per il fatto che non ha tutti i giocatori a disposizione, si trova a affrontare delle amichevoli che possono essere anche impegnative in questo momento di preparazione, e vederle perdere, l'Inter è sempre l'Inter, chiunque vada in campo ed indossi quella maglia, quindi di sicuro non è contento in questo momento, anche perché ha delle altre cose alle quali pensare. Sicuramente le partite amichevoli a questo punto della stagione senza la squadra al completo possono creare sono semplicemente un moltiplicatore di polemiche. Grazie Massimo. Certo. Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro. Grazie Massimo Paganin. Jose Mourinho famously came here the first time to Chelsea and announced himself as a special one. How would you like to be seen on your arrival here at Chelsea? Okay. I'm not very good to find different name, no? For me. Oh, questo è Conte che non si è dato un soprannome ieri, non è lo special one, non è niente. Come ti è parso il primo Conte, Pier? Beh, allora, innanzitutto c'è un discorso linguistico, perché ragazzi, questo è promosso, la realtà, promosso. No? Sì, direi di sì, no, promosso. Sì, dai, sei e mezzo. No, questa è la realtà della vita, nel senso che poi alla fine magari uno dice delle cose intelligentissime, ma se non riesce a esprimerle la lingua giusta. Conte è andato benino dal punto di vista dell'inglese, quindi vuol dire che si è fatto trovare preparato all'appuntamento. E mi è sembrato il solito Conte, chiaramente un po' emozionato, perché credo che anche per lui questo sia veramente, questo è il debutto in società. Antonio Conte me l'aveva anche proprio raccontato due anni fa, prima della svolta con la nazionale, aveva avuto un contatto col Manchester United, un sondaggio, aveva quell'ambizione lì, legittima, che è quella di andare a allenare un campionato bellissimo, quello inglese, oggi l'ha coronata, e quindi mi è sembrato sì, un po' legato dall'emozione, però certamente un buon esordio. Il Mirror ha paragonato la prima conferenza stampa di Mourinho 12 anni fa, all'arrivo al Chelsea, quella dove si definì The Special One, a quella di ieri di Conte, e devo dirti che su tantissimi punti ha preferito il Conte di ieri a Mourinho di 12 anni fa, e questo insomma non è un pessimo modo di approcciare l'avventura al Chelsea. Ma poi conta solo il campo, sì, sicuro. Mazzarri, siamo fatti due risate con l'inglese, ma poi alla fine magari in campo dimostra di essere bravissimo, e magari invece insomma se dovesse valutare dall'inglese potrei cavarmene anch'io. No, ma la promozione era su tutto, anche sui messaggi. No, ma lui ha avuto un approccio secondo me sicuro, è piaciuto, senza essere autoritario. È piaciuto. Pier, c'è il GR delle 15. Ti saluto, appuntamento a domenica. Ciao. A domenica noi invece ci fermiamo. Dopo il GR parliamo anche del Tour de France, di quello che è accaduto ieri a Froome, 800-24-00-24. I know only this verb. Work, work and work. Tutti convocati. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Che dire? Arrieccici. convocati. Pazzesca questa, guarda Fruma, Fruma, incredibile. Ma sta succedendo qualcosa di incredibile, ma è pazzesco quello che sta succedendo. Guardate chi ci porta, che sta andando su. Chris Froome che sta andando su a piedi di corsa. È pazzesco quello che sta succedendo in questa tappa del Tour de France. Ancora Richie Porte che riesce fra le urlacce, aiutandosi anche con le mani, a ripartire e chiede alla moto dell'assistenza a Chris Froome. Ma l'avete una bicicletta? Ce l'avete una bicicletta? Ma gli hanno fatto cenno, abbiamo soltanto la ruota. Veramente, è pazzesco dal punto di vista organizzativo, qui emergono i limiti di questa corsa che sta perdendo le dimensioni reali. Pazzesco assolutamente quello che è successo e quello che sta succedendo in questa tappa della Mont Ventoux. Oh, questo è l'epilogo incredibile ieri della tappa del Mont Ventoux, Pier Augusto Stagi. Ciao Pier. Ciao, buon pomeriggio. Allora, intanto oggi al Tour si corre. Mattinata era anche girata la voce che potesse essere annullata la crono di oggi per i fatti di Nizza, di ieri sera, fatti che evidentemente gettano, oltre che nella disperazione, anche tante domande. Tutto ciò che riguarda la sicurezza in Francia invece si sta correndo. Logicamente il clima è assolutamente silenziato, non ci sono manifestazioni di corollario, non c'è la carovana pubblicitaria che sfila silenziosa, non c'è musica, non ci saranno premiazioni, sarà osservato un minuto di silenzio prima di vestire la maglia gialla odierna. Insomma, si corre però con il dolore, con la testa rivolta a Nizza, quello che è successo ieri sera. Ci dai un aggiornamento su come sta andando questa crono? Questa crono sta andando, al comando in questo momento c'è Nelson Oliveira, che è un compagno di squadra di Nairo Quintana. Tutti i migliori devono ancora partire e speriamo, per quanto ci riguarda, che ci possa essere una buona prova. È un cronometro molto difficile perché non c'è un metro di pianura e soprattutto c'è tantissimo vento anche oggi, veramente molto fastidioso. Gli ultimi 10 chilometri sono terribili perché fin quando c'è la vegetazione ancora c'è una protezione. Ho parlato con Davide Cimolai che mi ha detto che rischia veramente di cadere, si fa fatica a tenere, a governare il mezzo meccanico, il vento non tende a calare, quindi al momento sono tutti sulla stessa barca, nel senso che non è che c'è l'atleta che ha avuto fortuna e è riuscito a correre in meteo migliori. Il vento sta soffiando fortissimo dalle 7 di questa mattina, in realtà è 3 giorni che siamo costantemente inseguiti dal vento e oggi credo che vincerà a tutti gli effetti il più forte, quello che sì, saprà superare anche la montagna. Quello che saprà aerodinamicamente riuscire a superare questo muro di vento. Credo che oggi Chris Froome abbia la possibilità di incamerare altro vantaggio. E magari di cancellare quello che abbiamo visto ieri, anche se io credo che sulla classifica, oltre che per la neutralizzazione, anche per la grande voglia di non arrendersi di Chris Froome, che abbiamo visto anche ieri nel suo mettersi a correre verso la salita del Mont Ventoux, io credo che insomma oggi già, come ci raccontavi, la crono gli può dare l'occasione di tornare a scavare un solco tra sé e i rivali. Non so se mai saranno dimenticate quelle immagini che hanno messo in dubbio anche la capacità del Tour di reggere la sua stessa grandezza. Ma quello è innegabile, commesso veramente un grave errore è il Tour de France, l'organizzazione del Tour de France, e poi a mio modesto parere anche in seconda battuta la giuria, che si è piegata al volere del Tour de France, ha fatto in modo di così mitigare una grave manchevolezza. Era già successo in occasione, se ti ricordi, di quando si è sgonfiato l'arco gonfiabile dell'ultimo chilometro, che era piovuto sulla testa del povero e malcapitato Adam Yates, che secondo in classifica generale, che sono costati 3 punti di sutura al Mento. Ieri un'altra leggerezza, perché è vero che la Mont-Ventoux era stato accorciato, ridotto di 6 chilometri, era stato anticipata l'arrivo. Proprio per questa ragione però dovevano pensare a delle misure di sicurezza aggiuntive, perché c'erano tantissimi tifosi fin dal giorno prima che aspettavano questo evento su ogni osservatorio, e quindi in realtà tutto quel immenso popolo, no, che è chiamato il popolo dei camper, si era aspettato in un lembo di terra ristretto, molto più breve, invece che su 22 chilometri su 16. Non hanno messo transenne, non c'era polizia a sufficienza, c'è stata una grande leggerezza da parte dell'organizzazione, ahimè, lo dico a malincuore, perché nel mio cuore veramente c'è il Tour de France e questa è la manifestazione gioiello di tutto il movimento. Sì, ma al di là della figuraccia, Pier, c'è anche il rischio che si debba studiare qualcosa per rendere più sicure queste grandi ascese. Ieri è successo quello che non doveva succedere, ma sempre più spesso ci troviamo in cornici che sono fantastiche dal punto di vista emozionale, ma completamente ingestibili dal punto di vista anche della regolarità della corsa. Però allora siamo in chiaro, non arriveremo mai a transennare tutto, perché è impossibile. Cioè, una tappa di 200 km ci vorrebbero 400 km di transennare. No, però magari le salite in realtà, sì. In realtà il regolamento, ma le salite sono 20-25 km, quindi 50. In realtà il regolamento già parla chiaramente con la mancavoletta dove c'è stata, perché in realtà devi già transennare gli ultimi 3 km, sul lato di destra che sul lato di sinistra. Ieri così non era. E questa è la grande colpa del Tour de France. C'è qualche difficoltà nel collegamento, perché il vento rende difficile anche la telefonata. Soffia fortissimo. Sono situazioni non piacevoli. Sto mangiando anche la polvere. Comunque oggi ci sarà da attendere la risposta di Froome. A me ieri è piaciuto tantissimo, ieri, in quella sua volontà, correndo, di non arrendersi alla sconfitta, a uno scenario che rischiava anche di buttarlo fuori dalla classifica del Tour, se le cose non fossero andate in una certa maniera. E quella è l'immagine positiva, tutto il resto invece è l'immagine di una giornata nera per il Tour de France. Grazie Pier Augusto. Grazie a te, buon pomeriggio a tutti. Grazie per Augusto Staggi. 800 24 00 24, Claudio. Sì, grazie per la comunicazione. Eccoci. Volevo parlare di Mancini, sì. Che inizio trasmissione ne avete fatto cenno. 30 secondi per dire questo: è stato un grande giocatore e ha cominciato ad allenare subito la Fiorentina, senza neanche Potentino. Poi va alla Lazio, e con la squadra più forte del mondo praticamente non vince quasi nulla, se sì, non una Coppa Italia. Vabbè, più forte del mondo, insomma, era forte quella Lazio, però prego, però Claudio. Sì, io la reputo una delle squadre più forti, poi è una mia opinione. Comunque aveva Stamenest di centrali che raramente li ho visti allenare in giro. Comunque va all'Inter e vince con l'Inter, indubbiamente in anni in cui sappiamo tutti cosa è successo. Non gli tolgo i meriti. Va al Manchester City, sì, allena una squadra eccezionale, sì, e vince per il rotto della cuffia. Che però non vinceva da un secolo, mezzo secolo. Sì, no, ma non glielo tolgo questo, però arriva l'Inter, comincia, ma io vorrei questo giocatore, vorrei quell'altro. Io l'acquisito che pongo a voi è questo, ma il mestiere dell'allenatore, secondo me, è anche quello di valorizzare alcuni giocatori. Io non dico che lui non debba pretendere alcuni giocatori, però è valorizzare anche quelli che hai. Temo che lui si sia un po' dimenticato, se mai ce l'abbia avuto, questo spirito. Però ad esempio lui racconta di essere uno tra quelli che ha lanciato più giovani, ad esempio Balotelli, con lui è entrato in prima squadra e ci è entrato con un rendimento importante, anche decisivo nella stagione dello scudetto, ho vinto dall'Inter poi nell'ultima giornata a Parma. Secondo me in generale si sottovaluta un po' il peso dei successi di Mancini, che è vero, ha vinto anche in squadre che hanno investito tantissimo, gli hanno messo a disposizione delle rose importantissime, ma ha vinto anche laddove altri prima di lui avevano fallito, pur nelle stesse condizioni. E poi che sia un allenatore abituato a lavorare più con giocatori finiti che con prospetti da sgrezzare, credo che questo stia nei fatti, ma non necessariamente è un limite. Carmelo. Pronto? Eccoci. Grazie per la convocazione, io mi sono concesso due piccole mie riflessioni. Allora, la prima riguarda il Milan e tutta la situazione che si sta creando. Sì. Questo silenzio mi preoccupa. Mi preoccupa tanto perché vedo che le altre squadre sono molto attive sul mercato, comprano, acquistano, scambiano, fanno, dicono, e noi siamo a zero. Praticamente è arrivato solo Vangioni, se non erro, che ho anche dei miei dubbi per quanto riguarda il suo potenziale. Comunque, l'altra considerazione è riguardo all'incidente ieri di Froome al Tour, essendo un appassionato di ciclismo. Una volta al Tour c'era una regola: quando la maglia gialla ha un problema non si attacca, e ieri gli altri l'hanno attaccato, ed è la cosa che non mi è piaciuta. Ricordo che Pantani sul registrato, se non erro, Urrici aveva sì, forato. Però Carmelo, ieri Froome era a piedi, cioè cosa dovevano fare gli altri? Dovevano attenderlo. Fermarsi, scendere dalla bici, cioè sarebbe stata una scena ancora più surreale, o no? Ma la regola del Tour è questa, che non è una regola scritta ovviamente, però è una regola morale, diciamo, no? Che quando la maglia gialla ha un problema, un qualcosa, aspetta, si aspetta. Beh, almeno i diretti interessati, sempre stato così. Messa così secondo me è un po' troppo tranchant, cioè un conto è magari evitare di approfittare in maniera scorretta di un momento. Un conto è il ciclismo, che è uno sport in cui esistono anche gli incidenti, esistono anche i problemi tecnici. E poi ripeto, ieri cosa dovevano fare? A proposito del Milan, stiamo facendo le verifiche, perché ovviamente questa è una vicenda in cui è sempre complicato avere certezze, ma CCTV, rete statale televisiva cinese, avrebbe confermato l'acquisto del 70% del Milan da parte di Baidu, azienda di Robin Lee, per 437 milioni di dollari, che fa poco meno di 400 milioni di euro. Questa è la notizia che gira da qualche minuto, ma che, ripeto, va assolutamente controllata. Parliamo di moto, dai! Saluto Roberto Ungaro, ciao Roberto! Ciao, saluto a tutti. Allora, vi faccio sentire Valentino Rossi. Sta per iniziare il fine settimana del Gran Premio del Sachsenring in Germania. L'errore di Austin purtroppo è capitato, ci poteva stare dopo tante gare che non sbagliavo, e poi diciamo che la rottura del motore al Mugello è stata una brutta mazzata per il mio campionato, e quindi dovevo provare a rischiare qualcosa in più, e però purtroppo Assen ho fatto un altro errore, ecco. Quindi personalmente parlando adesso bisogna cercare di essere competitivi, sì, ma soprattutto di non sbagliare, cercare di arrivare in fondo alle gare, sperare di salire sul podio più volte possibili, e poi i conti si faranno fra un po'. Questo Valentino Rossi, Roberto, alla vigilia di un weekend che, come tutti gli altri che seguiranno, rischia di essere già decisivo per le sue speranze di mondiale. Ha passato due settimane dietro la lavagna dopo Assen. Sì, ha rinunciato anche ad andare in vacanza, invitato da Danilo Petrucci, ha detto no, non me lo merito, sto a casa a lavorare, si è allenato al ranch e insomma vuole rifarsi, perché gli errori li ha fatti, li ha ammessi, quindi questo comunque bisogna dirlo, e ha davanti un weekend comunque impegnativo, perché la pista del Sachsenring è una pista favorevole alla Honda, è un circuito molto lento, corto, stop and go, quindi l'accelerazione di Honda è avvantaggiata. È una pista particolare perché su 13 curve sono ben 10 tutte da un lato, quindi ecco che Michelin ha portato per la prima volta una gomma bimescola, cioè più dura da un lato sulla sinistra e invece meno dura, più soffice sulla destra, perché sono solo 3 le curve a destra, e stiamo a vedere. Però il meteo di nuovo protagonista, purtroppo, tant'è che stamattina Lorenzo brutta caduta, per fortuna nessuna frattura, ma ha fatto pensare male. E Iannone è stato più veloce con la Ducati, sorpresa con i Ducati, una pista che non dovrebbe essere avvantaggiata per lei. E invece, appena finite da poco le seconde libere, Maverick Vinales davanti, Iannone si conferma protagonista perché è secondo, Marquez a poco più di mezzo secondo, poi abbiamo Crascio, Dovizioso l'altra Ducati, quinta posizione, quindi anche Andrea ha messo bene, e Petrucci ottavo, Valentino purtroppo, ahimè, quattordicesimo, oltre un secondo e tre. C'è da capire se sono indicazioni che danno il segno di quello che è in questo momento la condizione di Valentino Rossi, della sua Yamaha, o se semplicemente sono le indicazioni del venerdì. Mi pare di aver capito anche che Valentino Rossi stia facendo la danza della pioggia, sì. Sperando che domenica il meteo abbia un peso rilevante sulla gara. Parecchio, ormai Lorenzo lo ha ammesso, teme l'acqua e quindi questo fattore sarebbe per lui molto pregiudicante. Staremo a vedere nel maturato Marquez, perché abbiamo visto che è un pilota diverso da quello dell'anno scorso, e quindi la gara sarà su loro due, diciamo, con l'incognita Ducati, perché Ducati va forte anche qui su questa pista. Quindi due ufficiali, ma anche Petrucci, attenzione, perché con l'acqua Danilo l'ha fatto vedere, va molto forte. Si è giocato il podio e solo la rottura dell'alternatore lo ha escluso nell'ultima gara, altrimenti anche lui era protagonista. Quindi insomma staremo a vedere. Qui Honda vince dalle ultime sei edizioni, quindi questo per far capire quanto è protagonista su questa pista. E l'ultimo non Honda ad aver vinto è il dottore. Esattamente lui, è l'ultimo che ha scritto il suo nome. Staremo a vedere. Il campionato sulla carta è ancora aperto, però è in salita, diciamo. No, ma siamo purtroppo quasi all'ultima chiamata ogni domenica, cioè 42 punti tra Rossi e Marquez, insomma, diciamo la verità, Roberto, ogni domenica è la domenica in cui magari Valentino non può vincerlo, ma di sicuro può perderlo. Sì, è vero, però 1-0 è facile per ogni pilota, e quest'anno Marquez ne ha pagati pochi, solo uno, gli altri due. E 1-0 sono 25 punti, quindi mai dire mai, la bandiera a scacchi è solo lei può dire è finita. Certo che messa così 42 punti sono tanti, quello è vero. Grazie Roberto. A voi, un saluto. Alla prossima, vi faccio sentire anche Iannone a proposito di Ducati. La certezza più importante è che comunque non partiamo più ultimi e quindi sarà tutto da vedere, e quindi diciamo che con una buona qualifica sicuramente il risvolto della gara alla fine può essere sempre molto diverso, però penso che ovviamente negli ultimi anni non è stata una pista molto, molto facile per noi, è stata una pista credo la più difficile di tutto il campionato, ma quest'anno credo che abbiamo migliorato in tanti aspetti, in tanti punti dove prima eravamo più deboli, e quindi spero e penso che qui questi miglioramenti possano sentirsi e fare la differenza. Domenico, 800 24 00 24. Domenico, buongiorno. Eccoci. Io per caso ieri ho assistito alla tappa, lì all'arrivo della tappa, sono rimasto indignato, è veramente una cosa allucinante che succeda una cosa così al Tour. L'anno scorso ogni tappa c'era una caduta, quest'anno abbiamo visto cadute, ne vediamo di tutte, ma c'è un responsabile, c'è qualcuno che paga per quello che succede? Beh, c'è qualcuno che deve garantire che il Tour de France funzioni meglio la prossima volta. C'è qualcuno che ha deciso ad esempio di neutralizzare i tempi di Froome, una scelta che non è piaciuta a tutti, perché ad esempio ci sono altri precedenti di incidenti con i mezzi a supporto di una grande gara ciclistica in cui la vittima di turno alla fine è stata penalizzata e non ha avuto la possibilità di vedere neutralizzato il proprio tempo. C'è, e lo spiegava secondo me benissimo prima Pier Augusto Staggi, la sensazione che il Tour de France si stia misurando con un gigantismo difficile da coniugare in sicurezza oltre che in spettacolo, però è la più grande manifestazione sportiva dopo le Olimpiadi, il Tour de France, e quindi va anche accettato con le sue debolezze. Alessandro? Sì, volevo intervenire anche io sulla vicenda Froome. Sì. Direi che siamo tutti d'accordo che dal punto di vista sportivo sarebbe stato scorretto che Froome avesse perso un tour per una cosa del genere, però dal punto di vista, diciamo, giuridico, cioè si crea un pericoloso precedente, perché qui hanno applicato una regola che in realtà non c'è scritta, di neutralizzare se succede un incidente del genere. Lei faceva riferimento a dei fatti passati, effettivamente nel Tour 2011, non so se se lo ricorda, Fletcher venne travolto da un'auto della TV, venne mandato in un campo sul filo spinato e nessuno gli diede il tempo del vincitore della sua tappa che era un suo compagno di fuga. Lo scorso anno San Sebastian del 2015, Van Avermaet in fuga, anche lui colpito da una moto, perse la possibilità di vincere e nessuno gli chiese scusa, quindi volevo sapere cosa ne pensate Quindi da ieri vale il precedente Froome, e quindi magari verrà anche messo nei regolamenti che in caso di situazioni eccezionali come quella di ieri, con responsabilità che sono evidenti dell'organizzazione per non aver controllato quegli ultimi 3 chilometri in maniera adeguata, il che poi ha provocato l'incidente. Evidentemente in questi casi ci potrà essere un intervento della giuria, una neutralizzazione dei tempi. Se tutto deve avere un senso, da domani sarà così per tutti e non solo per Froome. Nicola dalla provincia di Napoli. Abbiamo un minuto, Nicola, dai. Salve, cambio discorso. Sì. Parlo di Higuain, 30 secondi. Grazie Higuain, che tu e il tuo caro procuratore fratello, dopo aver sbagliato un rigore clamoroso l'anno scorso, io l'avrei ceduto subito contro la Lazio, che non gli ha regalato la Champions, e grazie a Sarri è diventato di nuovo il top player della situazione, sta buttando fuoco per andarsene. La maglia resta, i calciatori passano. Forza Napoli, ora e sempre. Grazie per lo spazio. Grazie a te, Nicola. Divide, questa cosa di Higuain, che è vero. L'anno scorso è stato rilanciato dopo una stagione in cui era andato obiettivamente sotto le sue possibilità. Noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Alvise Falzone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Tutti convocati weekend. Torna domenica alle 17, però vi dico anche che da Fininvest fanno sapere che la notizia di CCTV va ritenuta per il momento infondata. Il giallo del Milan. Arrivederci ragazzi, ciao.